in primo piano. Buongiorno e buona domenica e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 da Giulia Crivelli. Oggi i quotidiani hanno quasi tutti l'apertura sulla guerra in Iraq, possiamo chiamarla così, anche se per ora il presidente americano Barack Obama ha detto che non manderà soldati, però ha mandato molte bombe per ora. E poi ci sono naturalmente i temi economici, ma anche molti approfondimenti e, come spesso succede la domenica, interviste anche molto ampie a esponenti del governo o esponenti di primo piano delle istituzioni, come vedremo. Cominciamo allora dal Corriere della Sera, che ha questo titolo virgolettato: aiutateci, ci massacrano. Ed è naturalmente l'appello di tutte quelle minoranze religiose che sono massacrate dai nuovi vertici dell'Iraq e questi califfi dell'ISIS. A Erbil, tra i cristiani in fuga dagli estremisti islamici, il titolo del reportage di Lorenzo Cremonesi. Ma sono tantissimi gli approfondimenti del Corriere della Sera, da pagina 2 a pagina 5, con anche un commento di Massimo Gaggi sulle scelte di Barack Obama, che ieri è intervenuto di nuovo alla televisione in quella che noi qui chiameremmo un intervento a televisioni unite per spiegare che i raid dureranno a lungo. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche la rubrica di Aldo Grasso, Padiglione Italia, che questa domenica è dedicata, non abbiamo tempo di leggerla perché la rassegna della domenica in estate, sapete, è un po' più breve, però è dedicata a quel Vincenzo Maria Mastronardi, il criminologo che ha invitato Francesco Schettino a tenere una lezione sulla gestione del panico all'Università La Sapienza, e ne hanno parlato poi tutti i giornali già giovedì scorso. Ne avrete letto sicuramente, e Aldo Grasso, appunto, anziché parlare di Schettino e della sua naturalmente totale mancanza di vergogna a apparire in pubblico e a parlare di quello che è successo alla Concordia. Tra l'altro proprio adesso avete sentito il reportage di Raffaella Calandra sulla Concordia, sul relitto della Concordia al Giglio. Ecco, a parte la totale assenza di vergogna in Schettino, anche appunto l'atteggiamento di questo criminologo che lo ha invitato a parlare della vicenda e appunto di come si gestisce il panico. La prima pagina della Repubblica, anche in questo caso il titolo principale è dedicato alla guerra in Iraq. Obama, due punti, è un dovere fermare il genocidio, e sono partiti, c'è una cronaca di tutti questi nuovi raid USA in Iraq. C'è tra l'altro la trascrizione di un'intervista che Thomas Friedman, che è uno dei giornalisti di punta del New York Times, ha fatto ieri a Obama, e che è appare sul New York Times, e che Repubblica, che ha un accordo con il New York Times per pubblicare alcuni articoli, traduce appunto e pubblica pagine 2 e 3. Il succo dell'intervista riassunto nel titolo è: i nostri soldati non torneranno là. Obama ha fatto appunto questa promessa. Dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo l'intervista al presidente del Senato Pietro Grasso, che naturalmente parla dell'approvazione, di cui abbiamo parlato anche noi ieri, in prima lettura della riforma del Senato, che sapete diventerà un Senato non elettivo. Il titolo è: un calvario, è stato un calvario, ricordiamo tutti appunto come nei giorni scorsi, della settimana scorsa, è stato un calvario soprattutto per il numero di emendamenti, qualcosa come 8.000 emendamenti che Grasso ha dovuto in qualche modo gestire. Dimenticavo, visto che vi ho detto che è il giorno delle grandi interviste, invece dalla prima pagina del Corriere della Sera il richiamo all'intervista a Maria Elena Boschi, appunto il ministro per le riforme, che annuncia in questa lunga intervista che poi trovate a pagina 11 di Monica Guerzoni, tra le tante cose, a parte i commenti sul percorso di questa prima lettura, e il ministro Boschi commenta: noi siamo stati più forti della fatica. Dice anche che Forza Italia non entrerà nel governo. Appunto, a domanda su questo argomento risponde così. La prima pagina del Sole 24 Ore è più economica, perché c'è un grande cambiamento che interessa tantissimi contribuenti, ed è quello sugli studi di settore. Ci saranno meno contribuenti sotto esame. Il motivo è che questi studi di settore sono naturalmente molto criticati, come sanno bene tutti i lettori del Sole 24 Ore, ma anche tutti i contribuenti che ne sono stati interessati, e soprattutto negli ultimi anni il gettito recuperato da questi sistemi di controllo si è molto ridotto. L'analisi è di Jean-Marie Delbo, che è il responsabile di tutta la sezione norme e tributi del Sole, quindi massimo nostro esperto. Svecchiare in tre mosse, appunto, cerca di spiegarci come svecchiare questo strumento, che è sicuramente utile, esiste in forme diverse in tanti paesi, ma in Italia evidentemente sta stato mal congegnato, mal si è evoluto e ora scopriamo anche che appunto funziona poco. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche un'analisi di Leonardo Maisano sull'imminente voto della Scozia che vota appunto per diventare indipendente da Londra. Sapete che una delle ultime proposte, e che forse verrà anche accolta, del Premier Cameron per invitare gli scozzesi o a cancellare del tutto il referendum o comunque a questo referendum a votare no all'indipendenza da Londra, è che Londra potrebbe restituire tutte le tasse alla Scozia, che potrebbe gestirle da sola. Quindi Scozia contro Londra, anche per noi un fondo stile Norvegia. Questo è anche poi appunto l'analisi che fa Maisano del sistema della Norvegia. Come sapete, alla domenica c'è sempre la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che prende in esame una singola società quotata e cerca di spiegare quali sono i vantaggi e gli svantaggi per i risparmiatori. Oggi è la volta di Sorin, che è una società biomedicale. Sorin scommette sui paesi emergenti e nuove tecnologie, ma c'è naturalmente il nodo delle valute, che poi esiste per qualsiasi azienda europea, questo ottovolante valutario che sta penalizzando tutte le aziende che producono ed esportano in euro per via appunto della forza della nostra moneta soprattutto, ma anche della svalutazione che hanno fatto altri paesi a partire dal Giappone. Sugli studi di settore, vi dicevo, trovate tutti gli approfondimenti a pagina 3. La prima pagina della Stampa è invece sulla prima pagina della Stampa il titolo principale è dedicato a Renzi, con tutte le dichiarazioni che ha un po' rilasciato ieri, che sapete che ha partecipato al raduno a San Rossore in provincia di Pisa degli scout. Il virgolettato che la Stampa sceglie per riassumere la posizione di Renzi è: non prendo ordini dall'Unione Europea. Ricorderete che questa settimana dall'Unione Europea Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, il nostro banchiere centrale, aveva detto, aveva paventato, aveva anticipato forse, perché chissà cosa succederà nei prossimi mesi, che se i singoli paesi non sono capaci di fare le riforme, beh, potrebbero esserci anche dei diktat dall'Unione Europea. Alla vigilia quindi di questi 6 mesi di governo, perché ormai sono già passati 6 mesi di governo, il Premier parla di elezioni, Draghi, Berlusconi, e poi torna ad attaccare le inadeguatezze della classe dirigente. Tutto questo riassunto che fa Federico Geremicca delle più recenti dichiarazioni del Premier Renzi lo trovate a pagina 2, pagina 3. La fotonotizia dedicata all'Iraq, con questa foto di migliaia di yazidi in fuga sulle montagne dagli jihadisti dell'ISIS di cui parlavamo prima, 2 giorni per salvare un popolo. Sono 40.000 e appunto gli yazidi assediati dagli islamisti, mancano cibo e acqua. Obama, anche qui la Stampa riporta le dichiarazioni di ieri di Obama, i raid dureranno a lungo. Dalla prima pagina della Stampa anche una notizia, trovate anche sugli altri giornali, non richiamata però in prima pagina, che è quella della Turchia al voto. Per la prima volta suffragio universale, il premier Erdogan è favorito, è diventato un po', come lo definisce il nostro Alberto Negri, il sultano della Turchia. E c'è appunto un'analisi Marta Ottaviani, che tra l'altro è inviata ad Ankara, su quelle che potranno essere le conseguenze di questo voto. La prima pagina dell'Avvenire, naturalmente dedicata alla guerra in Iraq, perché una delle minoranze religiose più colpite appunto è quella dei cristiani yazidi. Cristiani iracheni, diritto a restare. L'intervista, c'è un'intervista su Avvenire all'inviato del Papa, che è in partenza per il Kurdistan, e l'Avvenire ricorda anche un tweet di Papa Francesco. Sapete che il suo account a chiocciolina Pontifex è uno dei più seguiti in assoluto, tra l'altro è anche in molte lingue su Twitter. La comunità internazionale deve proteggere tutte le vittime. C'è una fotonotizia di una foto vicino a Irbil dove si vede chiaramente il fumo dei primi raid statunitensi in Iraq. Alle pagine 4 e 5 troviamo la cronaca di quello che è successo ieri. E vi segnalo l'editoriale di Marina Corradi. Settimana scorsa avevamo letto sempre di Marina Corradi il bel editoriale sulla fecondazione eterologa, e oggi vi leggo le prime righe, cerca di farci capire, noi che così fortunati qui in Europa non conosciamo più la guerra da tanti anni, e che cosa significa appunto svegliarsi e o con il suono delle bombe o con il suono delle sirene, come avviene a Gaza o a Tel Aviv o a Gerusalemme, oppure con gli altoparlanti che vi dicono lasciate le vostre case perché se vi restate rischiate di morire. Allora appunto vi leggo le prime righe. Immaginate che una sera nelle strade della vostra città facciano irruzione dei rombanti convogli di uomini armati che con gli altoparlanti avvertono la popolazione di abbandonare la città entro la notte, pena la morte. Immaginate che agli annunci si alternino urla e raffiche di mitra e che sulla vostra porta una mano nemica col gesso tracci un segno che significa qui abitano dei cristiani. Immaginate ora una casa con una madre, tanti bambini, dei vecchi, magari non più in grado di camminare. Che fare? Morire tutti o abbandonare i vecchi al loro destino? Immaginate cosa sia lasciare un padre malato per salvare almeno i ragazzi. E come fa una madre con un figlio neonato e altri ancora piccoli a scappare coi bambini avvinghiati alle gonne? E così appunto cerca di farci capire un po', far capire a tutti noi che cosa significa vivere in una situazione del genere, come ripeto, noi stiamo festeggiando i 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, festeggiamo i 70 dal D-Day, quindi non abbiamo soltanto ormai degli anniversari delle grandi guerre che hanno sconvolto l'Europa e forse ci siamo dimenticati che cosa vuol dire appunto vivere, invece svegliarsi la mattina e sapere che una bomba potrebbe distruggere la nostra casa. Passiamo alla prima pagina del Messaggero, che ha invece un titolo diverso sulla questione dell'eterologa, a cui abbiamo appena fatto cenno. Perché sapete c'è molta confusione, c'era un decreto legge che non è stato esaminato e ora la Costituzione, tra l'altro un tribunale ha ordinato in quel caso contesissimo dei gemelli contesi tra i genitori biologici e quelli genetici che vadano ai genitori, che i bambini, i gemelli nati da questa fecondazione eterologa frutto di una grande confusione di provette in un ospedale vadano ai genitori biologici. Ora il Messaggero ha intervistato il neo presidente della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, che dice nessun divieto dopo lo stop del governo agli interventi, perché il ministro della salute Lorenzin ha detto che i tribunali non devono intervenire, dice non c'è vuoto normativo, in Italia si può fare, qualunque veto è contro la Costituzione. Molto controversa questa questione, perché se sfogliate i giornali di oggi trovate almeno appunto tre pareri diversi, questo del presidente niente po' di meno che della Corte Costituzionale, poi gli interventi del ministro della salute Lorenzin e poi anche naturalmente molti interventi di opinioni che trovate un po' su, come dico, su tutti i giornali. Dalla prima pagina del Messaggero vi segnalo anche il consueto editoriale di Romano Prodi della domenica, questa volta è dedicato allo shopping della Cina, che secondo Prodi è un'occasione per l'Italia. La notizia, sapete, di questa settimana, l'ultimo ingresso della Cina in una grande azienda, società italiana, è nelle generali, ma sono moltissimi gli investimenti che la Cina, o attraverso lo Stato o attraverso imprenditori, ha fatto nel nostro paese. Il giornale titola Basta immigrati, è un approfondimento sugli sbarchi, l'editoriale di Vittorio Feltri, 1000 sbarchi in 2 giorni, questo l'ultimo dato, le forze di polizia temono epidemie, il succo dell'editoriale di Vittorio Feltri è la festa è finita, il paese non ce la fa più, chiudiamo le frontiere. Vi leggo le primissime righe, un avvertimento preliminare ai soliti fessacchiotti del politicamente corretto, non accusateci di razzismo altrimenti siamo pronti a usare le vostre abituali armi, le roba del genere. Cerchiamo solo di fare una riflessione su quello che sta accadendo all'inizio del 2014 e rivolgiamo un appello accorato a chi più o meno democraticamente comanda in questo paese sfinito, se non finito. Dalla prima pagina del giornale vi segnalo anche l'intervento di Fiamma Nierenstein, che commenta quella che viene definita giustamente una campagna disgustosa. Ieri forse in tantissime città, Milano compresa, io ero in centro proprio mentre c'era questa manifestazione, ci sono state manifestazioni anti-Israele. Milano per esempio si gridava Netanyahu assassino. E però a Roma invece, quello che è successo a Roma è forse ancora più grave, ci sono stati manifesti antisemiti su molti negozi e con anche l'incitamento a boicottare Israele. Allora Fiamma Nierenstein appunto commenta questa notizia, l'odio a casa nostra, e poi richiama naturalmente ai tempi del nazismo, in cui questi volantini, questi boicottaggi, questi incitamenti al boicottaggio sono stati poi prima ancora dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale i segnali che stava per succedere qualcosa di molto grave, che l'antisemitismo stava crescendo. La prima pagina di Libero, fuga dall'Italia, anche qui un po' una digressione, non proprio un titolo di cronaca, con un articolo del direttore Maurizio Del Pietro, perché il 67% delle imprese scappa, questo è il titolo, dal 2007 gli utili per chi produce nel bel paese si sono dimezzati, così il Made in Italy è fatto per i 2/3 fuori confine. Ecco 6 esempi concreti dei vantaggi di delocalizzare. Renzi faccia le vacanze all'estero, capirà perché il PIL cala, questo è l'invito di Maurizio Valpietro. Naturalmente questo articolo, al di là del titolo molto forte, così molto polemico, è corredato da tutti questi dati economici richiamati nel sommario. Il manifesto Un tranquillo weekend di paura è a Gaza, perché il manifesto torna alla cronaca di Gaza, anche se ha anche un articolo su quello che poi sta succedendo in Iraq. Ieri, tra virgolette, solo 30 raid e tra virgolette solo 5 morti nella striscia. Israele punta sulla bassa intensità, una lingua guerra d'attrito con cui sfiancare Gaza e allontanare la pace. Questa naturalmente è l'opinione del manifesto, che appunto considera da quando sono iniziati l'8 luglio sbagliati questi raid. Obama, che non ha fatto nulla per evitare la strage, ora trova le richieste palestinesi legittime. Il titolo del Fatto Quotidiano: adesso Renzi è nelle mani del Caimano. Sapete che anche ieri il titolo era molto forte, mi sembra la porcata del Nazareno, per definire il passaggio della prima lettura al Senato della riforma costituzionale. Oggi anche altrettanto duro il Fatto, con articoli da pagina 2 a pagina 4. Dopo il via libera, quella che il Fatto definisce la controriforma del Senato grazie ai voti di Forza Italia, Berlusconi reclama l'agibilità politica. Sull'economia gioca con bastone e carota, pubblicamente attacca, nel segreto del Nazareno offre servigi. Intanto insiste con Strasburgo: fatemi candidare. Il Premier si rifugia dai Boy Scout. Questa è l'ironia del Fatto, che ricorda appunto che ieri Renzi è andato in visita, c'era anche la moglie al raduno di San Rossore dei Boy Scout. E Micaela Biancofiore, in un'intervista al Foglio, usa questa espressione: ce lo metteremo in tasca. Un'ultima segnalazione, l'ultima prima pagina che vi segnalo prima della pausa per il traffico, quello della Gazzetta, in attesa, tra l'altro, naturalmente domani sapete l'elezione del candidato del presidente della Federcalcio, il favorito resta Carlo Tavecchio, 71 anni, con tutte le polemiche che hanno accompagnato la sua candidatura. Ma il titolo principale della Gazzetta è dedicato al Milan, perché ha preso Diego Lopez come portiere, e quindi il titolo è Milan porta blindata. Per Galliani lo spagnolo è il miglior portiere d'Europa, però, scrive la Gazzetta, l'acquisto di questo giocatore, che ha 32 anni, ex Real Madrid, conferma una tendenza. In Italia ormai arrivano soprattutto vecchi campioni. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto i titoli delle prime pagine dei giornali, la maggior parte dei quali dedicati ai raid in Iraq decisi dal presidente Obama, ma anche con altri argomenti come la polemica che c'è in Italia sulla fecondazione eterologa, sulla legge che deve regolarla, e i bombardamenti a Gaza, e anche molta, molta attualità e molte interviste. E allora, a proposito di interviste, quella che vi segnalavo dal Corriere della Sera a Maria Elena Boschi, ministro per le riforme. Il titolo dell'intervista di Monica Guerzoni, che trovate a pagina 11 del Corriere, è stato faticoso, ma siamo stati più forti e non ci sarà alcun inciucio con Forza Italia. Vi leggo perché, come sapete, siamo ancora in prima lettura di questa riforma del Senato. Ci potranno essere molti cambiamenti, e soprattutto ci sono molte incognite per la maggioranza con cui passerà, perché se alla fine non sarà quella richiesta dalla Costituzione, si dovrà andare anche a un referendum. E allora, per esempio, chiede Monica Guerzoni: la platea che legge il capo dello Stato si può ampliare? Cosa prevede su immunità ed elettività? Perché sono tanti altri dossier sul tavolo, appunto, del ministro Maria Elena Boschi. E che risponde: è prematuro, vedremo se alla Camera alcuni punti verranno messi in discussione. Al Senato abbiamo fatto 4.000 votazioni, la maggioranza ha sempre tenuto, tranne che in un paio di voti segreti. Alla Camera c'è una maggioranza estesa, io sono tranquilla, non avremo problemi di numeri. Dal Corriere vi segnalo anche una pagina intera fatta molto bene, con un'infografica molto chiara, quasi proprio da tenere via per chi magari vuole così avere un riferimento su questo argomento. È tutta dedicata al virus Ebola. C'è questa, sapete, questa epidemia di virus, di questa febbre emorragica, di cui di fatto non, per la quale di fatto non c'è ancora una cura, anche se si sta lavorando a un vaccino. E allora il Corriere della Sera titola appunto: lotta al virus Ebola, un vaccino entro il 2015. C'è una, vi dicevo, l'infografica, e poi un approfondimento, un riassunto di Agostino Gramigna su tutto quello, sulle misure che sono state prese in Africa, e poi, per esempio, un'altra piccola mappa per capire dove sono i focolai. La Guinea ha chiuso le frontiere, la Nigeria ha dichiarato lo stato di emergenza. Quindi quella che era iniziata così un po', avevamo cominciato, tutti i giornali se ne erano un po' occupati così sottotono, adesso appunto anche l'OMS invece da qualche giorno sottolinea tutti i pericoli. dal Corriere della Repubblica, vi dicevo, l'intervista a Piero Grasso, il Presidente del Senato, di Liana Milella, anche qui due pagine, il titolo Trappole, risse e insulti, messo in croce per 15 giorni, ma sul testo non cambio idea e la Camera potrà soltanto migliorarlo. Dalla Repubblica vi segnalo un articolo che era richiamato in prima pagina, un approfondimento sulla Spagna. La Spagna, sapete, era forse più in crisi di noi 2, 3, 4 anni fa, ha fatto delle riforme forse ancora più dure di quelle che sono annunciate in Italia, e ora però, ci racconta Federico Fubini, inviato a Barcellona, forse comincia a raccogliere i frutti. Tagli, lavoro più flessibile e aiuti. Con le riforme dettate dall'Unione Europea, la Spagna ha ripreso a correre. Fino a poco tempo fa l'economia iberica era al collasso. Nel 2014 il PIL crescerà dell'1,5% con 400.000 nuovi posti di lavoro. E vi ricordo invece che noi, se cresceremo, cresceremo dello 0,1-0,2. Quindi sicuramente un confronto, se non altro, appunto da fare, perché poi c'è proprio anche un grafico, anche qui con l'aiuto dei grafici, la ripresa del PIL dal marzo 2002 con il crollo nel 2009, poi la lenta risalita nel 2010, un altro crollo nel 2013 e la risalita che adesso appare appunto molto sostenuta con questo più 1,5% previsto per l'anno. Su Alitalia, il giorno dopo l'accordo, da Repubblica vi segnalo un articolo di Paolo Griseri che ci ricorda, perché purtroppo siamo il paese sempre con la memoria corta, 3 miliardi bruciati per il no a Air France, con quella salvezza possibile del 2008 che fu appunto l'accordo con Air France, alla fine non fu firmato, e all'Italia poi arrivarono i capitani coraggiosi 3 anni fa, lo sappiamo, però insomma in questi 2 anni poi Alitalia ha continuato a perdere circa 1 milione al giorno. Non dimentichiamocelo, ecco, per carità, adesso se Alitalia Etihad decollerà e come annunciano nel 2017 la compagnia sarà inutile, saremo tutti contenti, però non dimentichiamoci, cerchiamo di non dimenticare gli errori del passato, se non altro per non ricommetterli magari con altre aziende. Dal Messaggero vi dicevo l'intervista a Giuseppe Tesauro, neo presidente della Corte Costituzionale, la trovate a pagina 3. Non c'è alcun vuoto normativo sull'eterologa, che in Italia si può già fare, questo è il parere di Tesauro. Dalla Stampa vi segnalo un bel approfondimento di Cristina Benenati da Savona, che si chiede dove sono finite le balene del Mar Ligure. Nel Mar Ligure sono infatti crollati gli avvistamenti che fino all'anno scorso c'erano. Per gli esperti la causa sono i mutamenti climatici che hanno ridotto il fitoplancton, che è il principale nutrimento delle balene. Dal Fatto Quotidiano invece vi segnalo un'altra intervista, questa volta a Roberto Calderoli, ve la segnalo anche perché è raro che un politico faccia così autocritica, lui la fa e dice anche che insomma è molto pentito di alcune frasi che ha detto in passato, e il titolo dell'intervista, che trovate a pagina 6, di Carlo Tecce, la sala operatoria, le oche e il Senato, tanto ora smetto. Il riferimento è al fatto che Roberto Calderoli è un chirurgo maxillofacciale, dice che la sala operatoria gli manca molto, però ha le sue oche, quelle che ci sono nel suo giardino, nella casa vicino a Bergamo, e poi il Senato. Passiamo alle pagine culturali della domenica, perché come sempre alla domenica ci sono molti approfondimenti e forse anche un po' più tempo per leggere. E iniziamo come sempre dalla domenica del Sole 24 Ore. Vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Giovani e Vecchi. La citazione è questa: i giovani hanno la memoria corta e hanno occhi per guardare solo a levante. A ponente non ci guardano altro che i vecchi, quelli che hanno visto tramontare il sole tante volte. Dimmi quello che leggi e ti dirò chi sei, è vero, eppure ti conoscerai meglio se mi dicessi quello che rileggi. Questa nota delle memorie interiori di Mauriac, qui inizia il commento di Ravasi, coglie nel segno e può diventare un invito alla rilettura, cosa possibile durante un periodo di ferie come quello che stiamo attraversando. A me è capitato tra le mani, nella casa paterna ove mi trovo, la mia edizione scolastica dei Malavoglia. Ritrovo così questa osservazione che giro ai miei lettori, sia giovani sia miei coetanei. Verga, in ultima analisi, ci ricorda che ogni giorno è racchiuso tra alba e tramonto ed è quindi necessario conservare sia la freschezza dell'attesa, sia il senso del limite e della fine, altrimenti si cade in due estremi inconciliabili. I vecchi si ripetono e i giovani non hanno niente da dire, e così gli uni si lamentano e si annoiano degli altri e viceversa. Ed è, mi sembra interessante, anche in questo periodo in cui c'è anche molto conflitto generazionale per tanti motivi, e quindi questa riflessione su giovani e vecchi. E poi il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, nostro nel senso sia del Sole 24 Ore che di Radio 24, che come spesso accade prende spunto da una lettera che ha ricevuto di due ragazze che si chiamano Giovanna e Elena, hanno rilevato una libreria d'arte a Torino nel 2008 e raccontano quanto sia difficile sopravvivere gestendo questa attività. E poi Roberto Napoletano commenta appunto la loro lettera e vi leggo le ultime righe: paghiamo il conto di una crisi internazionale che non finisce mai, il problema però è in casa e non si risolve da solo, bisogna affrontare con competenze e senza salti nel vuoto il nodo del debito pubblico, bisogna togliere o fortemente ridurre, con i fatti e non a parole, i troppi vincoli che frenano le imprese e bloccano gli investimenti. E anche questa di queste due ragazze era appunto un tentativo di fare impresa culturale, tra l'altro, nel nostro paese. Dalle pagine del Sole 24 Ore vi segnalo anche la recensione di Angela Vettese alla mostra che Palazzo Reale a Milano dedica a Takashi Murakami, uno dei più importanti artisti contemporanei giapponesi. È la prima personale italiana del grande artista ed è allestita in uno spazio pubblico nella Sala delle Cariatidi, che è appunto un bellissimo spazio proprio vicino al Duomo. Passiamo alla lettura del Corriere della Sera, il supplemento del Corriere della Sera della domenica, dove sapete la copertina è sempre affidata a un artista. Oggi è Daniel Buren, un artista francese che ha questo schizzo che sembra un po' una scatola in fondo alla quale c'è del colore, è molto divertente. Dall'interno vi segnalo un approfondimento: parlavamo prima del virus Ebola che ha colpito l'Africa, ma l'Africa non è soltanto naturalmente povertà e malattia. C'è per esempio, ne parla il Corriere della Sera con questo articolo di Michele Farina, da uno studio della Banca Mondiale emerge che ci sono 90 hub high tech in un continente che è sia alle prese con la carenza di infrastrutture, ma che ha anche colline cablate e savana digitale, così ci racconta il Corriere della Sera, con anche qui un'infografica dove per esempio scopriamo che ad Accra nel Ghana c'è Hope City, un mega parco tecnologico in via di realizzazione, un progetto italiano tra l'altro che darà lavoro a 50.000 persone e ospiterà il grattacielo più alto del continente. L'infografica, questo visual data che sapete è una mia passione questa settimana sulla lettura, è dedicata alla cultura, alla diffusione della cultura. L'Italia superpotenza culturale, i veri numeri, con i dati tratti dall'UNESCO che fanno capire nessun paese, che conferma come nessun paese abbia più siti UNESCO del nostro. Anche se poi c'è un commento di Paolo Conti che ci spiega anche che non dobbiamo troppo bearci di questa sempre e di sbandierare troppo sempre queste percentuali, che abbiamo il 50, il 70, l'80% del patrimonio culturale, perché poi naturalmente dipende anche da come lo si gestisce. Vi segnalo, ma forse sono un po' così influenzata dal fatto di essere io stessa una giornalista, un approfondimento di Aldo Grasso e Cecilia Penati su quella bella serie TV che è The Newsroom, che è dedicata a un network americano, lezioncine di giornalismo, civiltà rispetto verità, ideali e prediche dell'informazione televisiva. Però l'audience, ci raccontano appunto Aldo Grasso e Cecilia Penati, di questa serie in realtà non è mai veramente decollata, e nella fiction c'è più umanità secondo loro, appunto forse si può scoprire di più sull'umanità anche del giornalismo quando si racconta il giornalismo nella fiction invece che in una serie che proprio come questa è ambientata nella redazione di un grande network. Passiamo al supplemento culturale del Messaggero, Macro. Questo è un tema di cui si è parlato molto quest'estate, cioè la fallibilità o l'infallibilità dei meteorologi. Ecco il titolo dell'approfondimento del Messaggero: è così il meteo si fa infallibile, sarà forse questa l'ultima estate all'insegna dell'incertezza climatica, con previsioni del tempo spesso sbagliate. Gli scienziati, infatti, guidati da Andrea Merlone, un ricercatore dell'INRIM di Torino, hanno posizionato prima sull'Everest e poi al Polo Nord dei sensori di ultima generazione capaci di trasformare i fenomeni naturali in numeri facilmente decifrabili. È un progetto che si chiama Meteomet. La Domenica della Repubblica, altro supplemento culturale dedicato a quei favolosi anni 90, con la mostra che li celebra, articoli di Anais Ginori e Guia Soncini. Tra l'altro la copertina contiene ben più di 10 ritratti fatti da Riccardo Mannelli, un grande illustratore, di di personaggi che appunto hanno sicuramente segnato un po' gli anni 90, dalla principessa Diana con la sua morte, a Pantani, Kurt Cobain, Nelson Mandela, e poi c'è anche un disegno di forse uno dei film più famosi degli anni 90, Titanic, con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Abbiamo parlato del grattacielo più alto dell'Africa che sorgerà ad Accra. Ecco invece un approfondimento sulla Skyline 2020, lo trovate a pagina 34 e 35, con un approfondimento di Ilaria Zappino e un grafico che ci fa capire se avremo grattacieli alti fino a 1 chilometro, non sarà solo per manie di grandezza, puliranno l'aria e saranno ricoperti di bambù, quindi anche tutta la parte un po' ecologica, ecosostenibile dell'edilizia che verrà. E l'ultima segnalazione che riesco a farvi è sempre dalla Repubblica, la rubrica che ogni domenica Walter City ha, è dedicata a un poeta. Oggi ha scelto Pierre de Ronsard, La speranza che sfiorisce nella rosa di Ronsard, appunto la poesia che Walter City commenta, è dedicata a Maria, di cui commemora il poeta commemora la morte, che non è una contadina ma una principessa. E ancora una volta veramente vi segnalo questo approfondimento sulla poesia di cui spesso, così spesso ci dimentichiamo, a cura di Walter City, ogni domenica sulla Repubblica. Era l'ultima segnalazione, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, un ringraziamento a Peter Bescapè in regia e ci sentiamo dopo Ferragosto.